Friuli nel mondo. Vigilia di Natale sul mare. Trentesima trasmissione dedicata agli emigrati. La voce di queste stesse campane sono della Carnia, di Udine, di Gorizia, di Pordenone, di Cividale, di San Daniele, di Osoppo, di Maniago, di Meduno, hanno destato recentemente negli Stati Uniti e nel Canada irrefrenabili nostalgie. Registrate dalla Radio Televisione Italiana, hanno accompagnato la visione sullo schermo di paesaggi realizzati dall'ente provinciale per il turismo di Udine. Monti, chiese, colline, castelli, pianure, mare, campi e vigneti, cantieri e opifici, fiumi dalla limpida vena, borghi arrisi di bimbi. Tutto il Friuli, piccolo compendio dell'universo. Ponte ideale fra i continenti e la piccola patria, l'ente Friuli nel mondo, nella persona di uno scrittore che al proprio paese ha dato libri di poesia, che agli emigrati ha dedicato e dedica ogni attività, come conferma anche il viaggio da lui compiuto 2 anni fa nell'America Latina alla ricerca del sangue friulano. Sbarcato il 15 novembre scorso a New York, Chino Ermacora ha ricevuto il festoso saluto di quella fame furlane del console generale d'Italia, della stampa. A Filadelfia, accolta altrettanto cordialmente, ha parlato alla radio italiana della cosiddetta città dell'amor fraterno. Ha parlato con accento fraterno. Di ritorno in Italia porterò a tutti il vostro caro saluto e lo porterò ai monti, ai fiumi, alle colline della terra che custodisce i vostri morti e che maternamente vi protegge e incita a proseguire in suo nome sulla strada dell'onestà e della laboriosità. Mandi, mandi, Furlax. A Reading e a New York ha sostato nelle nuove chiese, magnifiche di marmi, costruite da 2 nostri sacerdoti, veri muratori del Signore. A Chicago ha ricevuto l'omaggio, oltre che del console italiano, di una moltitudine di connazionali, ai quali, come nelle riunioni precedenti, ha distribuito molti libri. Acqua sorgiva per quegli assetati di patria. Spesso i canti del Friuli risuonavano nei cori improvvisati. A Detroit, dove entro il 1956 sorgerà la casa del Venetian Club, a Windsor, in quel Caboto Club, a Toronto, in quell'Italo Kennedy and Recreation Club, a Ottawa, nella cripta della chiesa di Sant'Antonio, dove una lapide ricorda che nel 1952 parlò Alcide De Gasperi, presidente della ricostruzione, a Montreal e di nuovo New York, radiodiscorsi ed incontri indimenticabili con i vecchi e con i nuovi emigrati, con famiglia al completo, e rinnovata commozione nel riudire i canti degli alpini, le villotte che compendiano l'anima del popolo friulano. Sono le stesse che il coro di Toronto ha ripetuto la notte di Natale alla radio di quella città, potenziata dal lavoro friulano. Che io torni, se no mo, si se no mo. Monta Tutto il continente americano si è vestito a festa per il Christmas, per il Natale. Il commiato con l'inviato di Friuli nel mondo è avvenuto in questa atmosfera di gioia collettiva, si direbbe infantile. Mentre nel Rockefeller Center di New York splendeva un albero alto 30 metri a intonarsi coi grattacieli circostanti e tutte le vie, tutte le piazze, tutte le case splendevano di alberi multicolori. Ma non soltanto nell'immensa metropoli, in tutti i centri, piccoli e grandi, del Canada e degli Stati Uniti. L'atrio della stazione di Montreal, ultima tappa del suo viaggio, si direbbe una chiesa adorna di immagini natalizie, sommersa di fronde verdi e di lustrini, avvolta da musiche pastorali. Motivo medesimo che dopo un tramonto sereno al largo delle Azzorre, sopra un mare turchino come il cielo, risuona per i 1000 passeggeri dell'Andrea Doria che li riportava in Italia a trascorrere il Natale nei paesi natii. Per la prima volta organizzata dalla società armatrice, una crociera del genere solcava l'Atlantico. 700 sbarcati soltanto a Napoli, ansiosi tutti di riudire, in una riunione caldeggiata dal comando della superba unità, Chino Ermacora, vivamente applaudito. Specie nel punto in cui rivendicava il genio degli italiani, da Colombo a Giovanni da Verrazzano, dai Cavoto a Marconi, la scoperta e il potenziamento della più moderna e ricca nazione del mondo.